Ore 9 e 7 minuti di martedì 8 gennaio 2025. Una cosa bella del podcasting è che è possibile ascoltare cose che hanno un ciclo di vita molto lungo e che non sono legate alla stretta attualità. Magari ci aiutano anche a capire l'attualità, ma le puoi ascoltare quest'anno, l'anno scorso, tra 5 anni, sono sempre utili. E parlo in particolare del bellissimo podcast 10:25 sulla... che ricostruisce, diciamo, quello che sappiamo ormai praticamente tutto della strage di Bologna dell'agosto 1980, con uno stile narrativo che ha il pregio proprio di distaccarsi dalla ricerca del ritmo ossessivo, del presidio dell'attenzione, anzi cerca di incuriosirti, perché si entra chiaramente a un livello di indagine di cui è stato difficile, per esempio seguendo la cronaca in tutti questi anni, avere un quadro completo. Quindi complimenti naturalmente a tutto lo staff di Slow News e anche al mio amico Alberto Pugliafito, che è una delle menti dietro questo prodotto, che mi offre l'occasione un po' anche per, diciamo così, tornare sul tema di quanto sia tutto sommato quasi controproducente schiacciare tutto il dibattito sulla disinformazione sul tema di ciò che è vero e ciò che è falso. Proprio la vicenda della strage di Bologna e in generale la vicenda delle stragi che hanno insanguinato il paese in quel periodo ci insegna, dovrebbe insegnarci, che il tema non è tanto saper distinguere il vero dal falso, ma qualcosa che viene prima, e cioè far sì che di certi temi se ne parli. Allora, siamo stati inondati di falsità, indubbiamente, nel periodo in cui tutto questo, la verità su tutto questo poteva cambiare le cose. Adesso che la verità sulle stragi non cambia praticamente più nulla, perché l'Italia ha perso questo ruolo strategico nel quadro internazionale, il muro è caduto, eccetera, eccetera, adesso che la verità su quell'argomento non fa più danni, tra virgolette, adesso se ne può anche parlare, anche perché banalmente non interessa a nessuno, perché non determina riflessi, per esempio, sulla vita politica quotidiana. Cioè anche il fatto, per esempio, di sapere che sono state stragi nere, e quindi di destra, potremmo dire, semplificando, e che adesso abbiamo un governo di destra, se anche gli italiani se ne rendessero conto, è quasi considerata preistoria. È cambiato il contesto, è cambiato tutto, tanti tabù sono stati sdoganati, oggi si può andare, come è successo l'altro ieri, serenamente ad H. Laurenzi, il che va benissimo, no? Per commemorare le vittime di un brutale e criminale agguato, va bene, però trasformarla, naturalmente, come succede ormai puntualmente, non solo in una specie di nuova Predappio, ma proprio in uno show televisivo, perché questo è quello che accade, è uno show che serve tutti gli anni a far vedere che ci sono migliaia di fascisti che possono fare il saluto romano in barba a tutte le leggi sulla apologia del fascismo, che, giuste o sbagliate, sono lì ma come tante altre leggi nel nostro paese sono ignorate. E tornando appunto al tema delle stragi, noi sappiamo molto bene che in tutti quegli anni quasi tutti gli apparati di informazione sono stati impegnati non tanto a dirci sempre solo le falsità, i depistaggi, ma proprio a dire ogni possibile verità, e magari dentro c'erano anche delle verità reali, ma erano così ben nascosti nel caos di tutto quello che si poteva dire, di tutte le possibili ipotesi, che alla fine il lavoro della ricostruzione è rimasto appunto nelle mani di professionisti del giornalismo d'inchiesta, quei pochi che facevano questo mestiere, penso a Ennio Remondino della RAI, che viene citato spesso proprio nel podcast 10 e 25, che hanno dedicato tutta la vita a mettere insieme i famosi puntini. Si diceva, su quegli anni, ormai sappiamo tutto, sia sugli esecutori materiali delle stragi, che si possono ricondurre all'arcipelago delle formazioni di estrema destra, consacrate alla lotta armata, quindi Ordine Nuovo, INAR, Avanguardia Nazionale, eccetera, e spesso anche la manovalanza della criminalità organizzata, la banda della Magliana, le varie mafie, eccetera. E non solo quindi conosciamo i nomi dei vari personaggi responsabili, cioè oggi si sanno Freda, Ventura, Concutelli, Maggi, Fioravanti, Mambro, eccetera, anche il reo confesso Vinci Guerra, che è l'unico che abbiamo saputo praticamente fin dall'inizio della strage di Peteano, ma soprattutto sappiamo anche chi sono i mandanti, no? I famosi personaggi di cui Pasolini non aveva le prove, ma lui lo sapeva perché era un intellettuale. Bene, oggi, anche se non siamo intellettuali, sappiamo bene che abbiamo avuto organizzazioni di raccordo nazionale di tutta questa manovalanza, come per esempio la P2, anche se definire la P2 di Gelli un'organizzazione nazionale non ha, è limitativo, perché come sappiamo hanno organizzato anche il golpe di Galtieri e Videra in Argentina. A loro volta, coordinate a livello internazionale da soggetti che, insomma, qui si potrebbe anche risalire senza le prove, cioè rispondendo semplicemente alla domanda a chi giova, e cioè il controspionaggio americano, e cioè la CIA, e cioè quindi i presidenti di quegli anni, e quindi Johnson, Nixon, cioè è abbastanza facile. E se dobbiamo fare un nome, lo fa molto chiaramente anche il podcast 10 e 25, viene in mente subito James Angleton, che reclutò addirittura Gelli nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale, per poi accompagnare la vicenda di Gelli per tutti gli anni 50, 60 e l'inizio anche degli anni 70. James Angleton era il capo del controspionaggio americano, e se lo vediamo nel contesto di una guerra come quella che evidentemente si credeva di combattere, potremmo anche considerarlo un eroe. E se invece pensiamo di essere stati anche in una minima misura uno stato di diritto, Angleton era un criminale, e responsabilità criminali avevano le amministrazioni americane, che in quegli anni organizzavano non solo queste simpatiche cosucce qui da noi, ma anche altre cosucce in Cile, in Portogallo, in Grecia, eccetera, eccetera. Ecco, queste sarebbero verità sconvolgenti che oggi si possono dire senza nemmeno fare troppo rumore. E però non interessano a nessuno, nessuno le considera rilevanti per gli altri. Il frame dell'informazione è altrove. E a parte ormai quello che è il tormentone di questi giorni, cioè che mi sento sempre più un attrezzo nel Novecento nell'appassionarmi a queste vicende, però forse di attuale c'è qualcosa. Il rendersi conto che la verità conta fino a un certo punto. Prima conta capire che cosa interessa alle persone e come interessare le persone. Il podcast 10:25 ci riesce, forse con una nicchia, chissà se un giorno riuscirà anche a chi di mestiere fa informazione nei grandi gruppi editoriali.